un problemino semantico che mi tormenta da un paio di settimane, da quando cioè ho eccezionalmente partecipato a una trasmissione di radio popolare che non era la caccia, ma uno di quei dialoghi telefonici con gli ascoltatori organizzati in occasione della campagna abbonamenti. E non perché delle campagne abbonamenti, vi giuro, in genere sia entusiasta, ma perché il tema prescelto quest'anno, quello della tolleranza, della multiculturalità, mi è sempre stato particolarmente caro. In fondo, da vecchio ammiratore di Voltaire quale sono, ho sempre creduto e sostenuto che sulla tolleranza, sul rispetto delle opinioni, delle costumanze altrui, si fondasse la cultura democratica moderna. Quella cultura che, nonostante il discredito che oggi è tanto di moda accettare sulle sue origini illuministiche, rappresenta l'unico tentativo serio mai compiuto per impostare su basi non autoritarie il problema della convivenza e dell'organizzazione sociale. Ma appunto, avete notato che io ho appena congiunto in una specie di endiadi automatica la tolleranza e il rispetto degli altri, nel presupposto implicito che l'una sia il presupposto dell'altro e viceversa. Ma una quantità di persone, evidentemente, l'accostamento non viene altrettanto spontaneo. In pochi minuti di trasmissione hanno chiamato almeno 3 ascoltatori per dirci che a loro, a essere tollerati da noi o da altri, non ci tenevano affatto, tollerassimo piuttosto le nostre sorelle. Loro volevano essere rispettati, stimati e considerati per quello che erano. In caso contrario non c'era tolleranza che tenesse e nemici come prima. Avranno avuto ragione loro, figuriamoci. Anch'io, se mi chiedessero se preferisco essere rispettato o tollerato, opterei per la prima ipotesi. Può darsi che a furia di sentir citare baggianate del tipo tolleranza zero, i più abbiano scisso nell'uso quotidiano l'idea di tolleranza da quella di rispetto, che ritengano anzi che l'idea stessa di tollerare abbia in sé qualcosa di sgradevolmente poco rispettoso, che comporti una specie di affermazione implicita della propria superiorità e dell'inferiorità altrui. Io sono buono, civile, educato e quindi ti tollero, ma se non righi dritto, cioè se non fai quello che io ti dico di fare, stanne più certo, non ti tollererò più. In questo caso tolleranza sarebbe uno dei tanti termini di valore che con gli anni hanno subito, grazie allo stesso successo, una specie di logoramento semantico, allo stesso titolo, diciamo, di socialismo, di democrazia, persino di liberalismo, che una volta erano tutte parole forti, in grado di suscitare odi e passioni epiche, e oggi sono soltanto delle etichette scolorite sotto cui si può far passare di tutto. E in questo caso una frase come "non so che farmene della vostra tolleranza" fa esattamente il paio con quel "al diavolo voi e la vostra democrazia liberale" che viene così spontaneo sulle labbra di chi ascolti dibattiti o scambi d'opinione in cui siano presenti esponenti della nostra ex sinistra. A me, però, forse perché, come vi dicevo prima, resto un ammiratore del vecchio Voltaire e continuo a ritenere che il Traité sur la tolérance del 1763 sia una delle opere fondamentali della cultura mondiale, a me resta un dubbio. Chi avverte con fastidio la prospettiva di essere tollerato si ribella probabilmente anche a quel tanto di paternalistico, di gratuito che il termine sottintende. Il rispetto me lo guadagno, me lo merito. Me lo merito io, è una cosa mia che tu devi riconoscere. La tolleranza me la dai tu, è una specie di regalo, e io dei tuoi regali, guarda, non so proprio che farmene. Che è giusto, ovviamente, ma ha un limite. Da un lato, chi ragiona così non ha capito che la tolleranza è qualcosa che funziona solo se è reciproca. Io tollero te e viceversa, se no che razza di società tollerante sarebbe la nostra, visto che anche tu ne fai parte. E poi che tutti, per quanto giustamente orgogliosi di noi, abbiamo comunque bisogno dei regali degli altri. Alla libertà e all'uguaglianza non nuoce un po' di fraternità. E poi per rispettare qualcuno o qualcosa bisogna innanzitutto conoscerlo. E per conoscerlo bisogna averne frequentazione. E come si fa a frequentare qualcuno o qualcosa che non si conosce? La tolleranza? La decisione provvisoriamente unilaterale di sospendere i propri pregiudizi verso l'altro ha appunto lo scopo di spezzare questo circolo vizioso. Da un gesto di buona volontà bisogna comunque partire, e perché offendersene allora?